Italia in controluce. Benvenuti nel pomeriggio di Radio 24, vi parla Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce. Oggi è venerdì e ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per il consueto focus sulla scuola e scuola in controluce. Scuola in controluce. Trovare lavoro anche con una laurea diventa sempre più difficile se pensiamo che è disoccupato un laureato su 5 e anche chi un lavoro lo trova lo stipendio non supera di molto i 1000 euro. Peggio vanno le cose per i giovani del sud e per le ragazze, seppure siano più brave in tutti i percorsi universitari. Un quadro che lascia davvero ben poco spazio all'ottimismo, quello che emerge dal rapporto Alma Laurea di quest'anno con 400.000 ragazzi coinvolti nell'indagine. Ne abbiamo parlato con il direttore di Alma Laurea, Andrea Cammelli. Diciamo che l'ottimismo possiamo ricavarlo nel confronto fra la situazione dei laureati e quelli che non hanno studiato. Diciamo che la situazione dei laureati, come abbiamo ormai dimostrato da tempo, è sicuramente migliore dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista delle retribuzioni. È vero che il quadro invece è meno confortante quando si guarda al trend, c'è una continua progressiva riduzione dell'occupazione di laureati anche nel nostro paese, sia i laureati di primo livello, quello che fanno le lauree triennali, insomma, che le laureati specialistici, quelli che studiano di più di quanto non abbiano fatto i loro fratelli prima della riforma universitaria, ma anche dei laureati specialistici a ciclo unico. Quindi c'è una contrazione dell'occupazione, una contrazione della stabilità e una contrazione anche dal punto di vista della retribuzione, che naturalmente certo preoccupa e mette molti punti interrogativi, insomma, su questa situazione del paese. Ecco, quanti sono i laureati che trovano un'occupazione, poi vediamo se ben retribuita o no, ad un anno dalla laurea? Il tasso di occupazione dei laureati di primo livello ad un anno raggiunge sostanzialmente attorno al 66-67%. E questo elemento importante è una quota più elevata di quanto non capiti ai laureati specialistici, quindi siamo su valori elevati, però ancora che tradiscono una situazione ancora particolarmente difficile per i laureati. Ci sono delle lauree che ancora garantiscono un'occupazione? Ma guardi, il quadro di riferimento è un quadro, per la verità, che dico riguardo un po' tutte le facoltà, un po' tutti i corsi di laurea. È vero che le lauree in alcune facoltà in particolare, ma non in tutto il paese nella misura identica, penso alle lauree in ingegneria, alle lauree in alcune materie scientifiche, alle lauree in architettura, lauree triennali nelle professioni sanitarie in particolare, mostrano un tasso di occupazione, una quota di occupazione molto più elevata di quanto non capiti per le lauree cosiddette generaliste, che hanno bisogno di tempi più lunghi per migliorare il loro livello di occupazione. Tengono, ma sono comunque in calo i numeri anche qui. Sì, tengono, ma sono in calo robusto, bisogna dire, per la verità. Ecco, a livello di retribuzioni, trovano meno lavoro, eppure devono, quando lo trovano, sono costretti ad accettare stipendi inferiori a quelli che si potevano proporre qualche anno fa. Non c'è dubbio che anche nella breve serie storica che abbiamo messo in evidenza, vediamo che il valore non nominale, il valore rivalutato, ci dice che c'è un calo, anche in questo caso consistente, della retribuzione. Siamo attorno, per i lavoratori di primo livello, attorno ai 1.100 euro mensili, nella dichiarazione dei ragazzi, che sono sostanzialmente della stessa consistenza per quanto riguarda i laureati specialistici, gli specialisti da ciclo unico. Certo, sono i valori ad un anno, a tre anni, a cinque, vediamo naturalmente che le cose crescono, le cose migliorano, anche la stabilità, la condizione occupazionale aumenta in misura più consistente, ma certo il primo approccio è un approccio complesso, un po' difficile. Insomma, la crisi si fa sentire a livello di occupazione dei nostri giovani laureati. La crisi sta facendo acuire anche le differenze fra nord e sud e le differenze di genere. Sì, anche in questo ennesimo rapporto nostro si mette in evidenza come la situazione acuisca, no? Dico, non c'è dubbio, c'è una differenza e dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista retributivo della condizione occupazionale dei laureati e delle laureate, e fra nord e sud, in quanto dico residenti naturalmente i laureati, anche in questo caso a un anno in particolare le differenze sono veramente tali, insomma, da non poter pensare che senza un intervento solido, robusto sul sistema produttivo anche, ma oltre che sull'università, le cose rischiano naturalmente, dico, di restare tali e quindi di dividere il paese in due. Quale può essere un dato che ci può far capire quant'è la differenza fra nord e sud e fra uomini e donne, fra giovani e giovani ragazze? Sì, in termini percentuali mi pare che sia attorno al 10%, il 12% per quanto riguarda l'occupazione delle ragazze del nord rispetto a quelle del sud, e questo naturalmente facilita la mobilità territoriale, in qualche modo, diciamo così, più che facilita, la costringe. Ecco, esatto, esattamente così, piuttosto che facilitarla, la costringe in qualche modo, e c'è una forte mobilità territoriale dal sud verso il nord, naturalmente. Dal nord è molto più modesta, ma semmai espatria, è un altro degli aspetti rilevanti che nel rapporto mettiamo in luce, quella che abbiamo chiamato in qualche modo la fuga dei cervelli. Ma tutto questo mi sembra che richiami un aspetto importante di cui il paese deve farsi carico, e è quello di investire di più in un settore che è strategico per il paese, soprattutto per un paese che voglia vivere nel mercato globale, inserirsi a livello, dico, internazionale. E la documentazione che abbiamo messo in luce ci dice chiaramente che il paese sta facendo esattamente il contrario di quello che stanno facendo la gran parte dei paesi dell'Unione Europea. Noi stiamo investendo di meno nel momento in cui c'è bisogno di qualificare di più e meglio le risorse umane più importanti, perché il paese diventi competitivo. Se non c'è questa svolta, il rischio potrebbe perfino essere che, paradossalmente, che un'università che migliora se stessa e le proprie capacità formative potrebbe perfino finire per aiutare la fuga di cervelli all'estero in misura più forte di quello che già non si realizza oggi. Dati ufficiali dell'OCSE naturalmente ci dicono che in Italia per ogni laureato, mettendo dentro anche tutti i giovani che poi sono fermati per strada, che hanno abbandonato, noi spendiamo 43.000 euro. No, lei tenga conto che in Svezia si spende due volte e mezzo tanto, in Germania si spende il doppio, perfino in Spagna, che pure in situazioni difficili, si spende il 55-60% in più di qua. E noi è chiaro che dobbiamo fare un'inversione di quell'intendenza. La sensazione forte che io personalmente condivido molto è che noi abbiamo una classe dirigente di età oltre i 55 anni, poco scolarizzata a livello universitario, che probabilmente fa fatica a comprendere il ruolo strategico degli investimenti in istruzione e ricerca, naturalmente, anche e soprattutto negli anni in cui abbiamo grosse difficoltà. Ripeto sempre con grande convinzione che siamo in anni di carestia, è vero, ma anche negli anni di carestia il contadino taglia su tutto, ma non sulla semina. Per tornare invece alle differenze di genere, su che ordine di differenza ci muoviamo, per capirci? Le differenze di genere riguardano un po' tutti gli aspetti, e quello dal punto di vista occupazionale, che vede le donne meno impegnate di quanto non capiti i loro colleghi maschi, e li vede meno stabili rispetto ai colleghi, le vedono meno retribuite di quanto non capita ai loro colleghi. Anche su questo terreno bisogna dire che da un lato abbiamo accertato che le performance delle ragazze che escono dall'università sono molto migliori di quanto non siano quelle dei loro colleghi maschi, e praticamente questo su tutti i percorsi di studio. Sono superiori. In realtà sul mercato del lavoro, quando le ragazze si presentano sul mercato del lavoro, quando le laureate si presentano, pagano il prezzo di una differenze di genere, di una discriminazione, chiamiamolo così, di genere, che si traduce appunto in una minore tasso di occupazione, una minore retribuzione e una minore stabilità. Parliamo ai ragazzi che magari nella scelta dell'università devono farla proprio in questo periodo. Formazione generalista o specialistica per tentare di ottenere prima o poi un posto di lavoro? Sì, noi ricordiamo sempre, nonostante certi luoghi comuni che sentiamo ripetere con molta frequenza, specializzarsi, che in questo momento in cui l'evoluzione tecnologica è rapidissima, i mutamenti sono così frequenti da mettere fuori gioco, da rendere obsoleta qualunque preparazione, l'importante almeno nel primo livello di studi universitari è quello di avere una solida preparazione ad imparare, ad apprendere, perché è un obbligo che avremo tutti quanti per tutto il corso della vita. Quindi i ragazzi intanto fare un percorso di studi che dia le basi dal punto di vista metodologico, dal punto di vista critico, per poter apprendere per tutto l'arco della vita. Poi naturalmente le scelte successive bisogna che siano più specialistiche, più orientate a rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro in quel momento. Teniamo conto più in generale che chiedere d'oggi a un ragazzo che deve fare un corso di studi che, se va bene, dura 5 anni, più probabilmente 6, di orientarsi verso ciò di cui avremo bisogno fra 6 anni diventa molto difficile, perché penso che nessun imprenditore, non solo in Italia ma anche all'estero, sappia esattamente fra 6 anni che cosa ci aspetta. C'è qualcuno che ci ricorda dall'OCSE che noi dobbiamo imparare e insegnare ai ragazzi ad apprendere, perché in realtà le professioni del domani ancora non sono note e quindi occorre imparare appunto ad apprendere. Avete ascoltato Italia in Controluce, la seconda edizione. Questa, come tutte le altre puntate, sono in podcast, le trovate su radio24.it. Siamo su Facebook, utilizzate sia la pagina che nel gruppo, Twitter, il blog sul sito della radio, la mail controluce@radio24.it. Lunedì alle 6.30 su Radio 24 torniamo con un reportage di Cristina Carpinelli sulla Lega e le tangenti.